Io ritengo che il comportamento dei mercati in questo periodo sia perfettamente razionale. C'è sicuramente tanta speculazione, come sempre nei mercati, quando salgono e quando scendono, perché tutti si accorgono della speculazione quando scendono, ma in realtà la speculazione è fortissima anche quando salgono. Inciso, i mercati stanno testando, i mercati è ovvio che si spaventino, perché non si vede la luce fuori dal tunnel, nel senso che l'Europa potrebbe benissimo salvare se stessa, questo lo dicono tutti, basterebbe fare una serie di cose che tranquillizzerebbero i mercati nel breve periodo e poi potrebbero dare tempo all'Europa per risolvere problemi di lungo periodo, quelli più strutturali. Il problema è la volontà politica, quindi i mercati secondo me stanno testando la volontà politica, che sia della BCE o che non è un ente politico ovviamente, ma soprattutto degli stati, per fare queste determinate cose. E il problema è quello che attualmente, dalle dichiarazioni che escono continuamente, dai vari vertici che non sono mai risolutivi, l'evidenza è che la volontà politica non c'è. E quindi i mercati ne prendono, traggono le loro conseguenze. Però posso dire, aggiungere una cosa, è ovvio che tutti quelli che invocano l'intervento della Banca Centrale Europea, sia ben chiaro, la Banca Centrale Europea può permetterci di comprare tempo. Il quantitative easing... Cioè, può essere diciamo, lo scudo antispread in attesa che la Corte Costituzionale tedesca... Sì, ma anche lo scudo stesso antispread, noi dobbiamo vivere senza uno scudo antispread. Cioè lo scudo deve esistere, ma non dovrebbe mai essere usato. Cioè quello che serve, che manca, sono le riforme strutturali dell'Europa. Un'Europa che deve unirsi, delegare, perdere una certa sovranità sulla politica fiscale a livello nazionale, delegare all'Unione Europea e fare quei passi verso, diciamo, quel sogno che hanno tanti, che sono gli Stati Uniti d'Europa, ammesso come potranno nascere, come potranno essere, con che tempi. Però bisogna dare al mercato l'idea che qualcosa stia cambiando, sia a livello della architettura europea, sia a livello dei singoli stati, perché anche noi italiani possiamo lamentarci dello spread, siamo oggetto di speculazione, la Confindustria ha stimato che 300 punti base di spread sono di troppo, cioè non sono eccessivi per noi. Però è anche vero che noi abbiamo degli squilibri strutturali enormi, non possiamo pretendere che le imprese estere vengano in Italia se abbiamo la tassazione più alta del mondo, se abbiamo una burocrazia come quella che abbiamo in Italia, se abbiamo una giustizia che per decidere su una casa ci mette 10 anni, se abbiamo la Banca Mondiale ogni anno stila la classifica dei paesi dove è facile fare impresa, ebbene l'Italia è all'87esimo posto. Sì, io ricordavo 89esimo, ma... È 87, l'ho visto ieri. Per cui noi, è ovvio, è giusto che chiediamo lo scudo antispread, è giusto che si attivi, perché se no non arriviamo neanche ai prossimi mesi, ma è anche giusto, e noi dobbiamo essere consapevoli che noi dobbiamo fare determinati passi, noi come italiani, gli spagnoli come spagnoli e l'Europa come Europa, se no la Banca Centrale Europea può fino a un certo punto.